Questa puntata di giochi sul nostro podcast è gentilmente offerta dalla pagina Facebook Il German Fighetto. Metti mi piace e sposta un cubetto. Ciao, ciao a tutti, benvenuti alla nostra nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Siamo stasera in quattro addirittura, se resistiamo, perché stiamo facendo la registrazione un po' sul tardino, quindi qualcuno lo vedo già che sta morendo dal sonno. Però abbiamo con noi Pierluca Zizzi, Alan Amico e Federico, ciao. Ciao a tutti, eccoci. Ciao. Allora, comincia a parlare Federico, che è il più in palla di noi. Non è vero, sono svegliissimo, anzi io nel tempo, durante la sera faccio tipo i vampiri, tendo a svegliarmi, quindi alle 9 mi puoi trovare particolarmente addormentato, poi però già a mezzanotte sono iperattivo, che pulisco, metto a posto la casa. Bravo, allora ti chiamo qua, così tempo una pulita. Di cosa parliamo oggi? Si è deciso di cosa si parla oggi? Certo, allora oggi abbiamo il nostro buon Pierluca. Ciao! Che cercherà di tediarci con qualche aggiornamento del quale è interessato solo lui, legato alla nuova idea G di Ponente, cos'è? Costa Est. Spiegaci qualcosa bello, di questo. È stato un bel evento. Vedi che non interessa solo me, che sì, c'era Federico, si è anche divertito. Federico, sì. Visto. Sì, ho praticamente monopolizzato svariati tavoli e svariate persone, facendo loro provare prototipi malconci. L'abbiamo nominato il Latinicon. Allora, c'è stato un momento che c'eravate tipo tutti in questo evento. Diteci quando è stato, cos'è successo. Ma sì, ma Fabio, te sei della costa ovest, queste cose non le puoi capire. Noi sì, costa est siamo più creativi, più abbronzati, più marittimi. Okay. Sì, più marittimi di uno che sta sul mare, va bene. Vai. Allora, praticamente l'idea è questa: i ragazzi della Sirchester Cobblepot hanno deciso di ospitare a Ravenna, anzi a dove eravamo, Punta Marina. Sì. Punta Marina. Un evento. Allora, l'evento praticamente è una sorta di spin-off dell'evento principale che avviene tutti gli anni a Torino, che è Idea G. Idea G nasce dalla mente malata di Walter Robert e penso anche Paolo Mori. E anche Paolo Mori, sì. C'è qualcun altro da annoverare fra i propri fondatori? Penso loro due. Loro due, principalmente loro due. Via. Allora, praticamente loro l'hanno portato avanti, ormai siamo a più di 10 anni che viene fatto questo evento, però effettivamente, visto che comunque la parte dell'Italia, diciamo l'Italia di mezzo, non faceva fatica ad arrivare a Torino tutte le volte, o comunque sentiva il bisogno di provare più spesso, si è deciso di fare anche questo evento qua. Avete fatto una mitosi. Abbiamo fatto un evento collaterale, c'era anche Paolo, quindi insomma patrocinato anche da uno dei due fondatori, quindi con tutti i crismi, non è che gliel'abbiamo fatto loro malgrado. E eravamo chiaramente un decimo quantità, cioè in tre praticamente. A Idea G ci sono un sacco di persone, sì, quindi anche un decimo fa un bel gruppetto. Certo, c'erano autori anche affermati, gente seria, non come me, sì, quindi c'erano Simone Luciani, Tascini. Pierluca Zizzi, mi dispiace che non c'è il tuo classico coautore Andrea Chiarvesi. Non c'è un periodo che lavora tanto, non poteva esserci. Però devo dire a Federico una cosa, che hai dimenticato che c'è già stato uno spin-off di Idea G, al quale io ho partecipato molto volentieri e sono di nuovo ospite loro, che sono gentilissimi, ed è Idea G Nord-Est, esatto, che si tiene a Udine, giusto per non fare... Ormai 200 ne avete fatti, cioè siete praticamente un virus. Però guarda, considera che se facciamo il paragone con l'America, in America ci sono due principali eventi che vengono fatti a carattere, diciamo, bimestrale, che sono Unpub, che è praticamente Unpubbed, è l'abbreviazione di Unpublished, e sono tutti autori aspiranti tali che si mettono lì a far provare i giochi e al contrario di noi, che eravamo noi che provavamo i nostri stessi giochi più o meno l'uno con l'altro, lì vengono, è come fosse una micro convention dove vengono persone, come dire, a giocare sapendo che giocheranno a dei prototipi. E poi c'è un'altra diciamo network di inventori di giochi, che però adesso mi sfugge il nome, tra poco ve lo dico, e che anche quello porta avanti l'idea di far provare giochi per svilupparli, ma soprattutto quest'ultimo, che, di cui non mi ricordo il nome, in particolare ha l'obiettivo di far incontrare editori e autori, quindi sono un bel pezzettino avanti rispetto a noi. Noi è chiaro, in Italia non ti dico spesso, ma insomma può capitare che editore e autore spesso combacino, nel senso che comunque l'editore, sì, è one man show, sono numerosi, sì. Esatto, sono tipo dei one man show, e va bene così, non è che non è una critica, semplicemente le dimensioni del mercato italiano non consentono, diciamo, di mettere in piedi niente che non sia diverso da un one man show in ambito di editoria. Poi dopo è chiaro, se fai le nazionalizzazioni, le distribuzioni e quant'altro, poi diventi anche puoi diventare del calibro di una Asterion, di una Giochi Uniti, di una Cranio o via discorrendo, senza nessun problema, proprio perché non fai più non perdi tempo a produrlo il gioco, ma perdi tempo semplicemente a nazionalizzarlo e a creare legami con i buyer per distribuirlo. Quindi hai tempo per fare dell'altro. Vanno però difesi come fossero degli animali in via d'estinzione queste piccole realtà, che fondamentalmente sono l'analogo delle case indipendenti, delle software house indipendenti dei videogame. Cioè se la, che ne so, la Electronic Arts è la Fantasy Flight, la piccola casina che fa i giochini per le app, che però ogni tanto sforna, magari, che ne so, degli RPG super belli o cose alla stregua di non lo so, di Machinarium, anche quello, non so se chi conosce Machinarium come videogioco. Io è sì. un'opera d'arte, diciamo, sì, inventata da un one man show che si è fatto la grafica, si è fatto per i fatti suoi, ha contattato una persona che facesse l'audio, fra parentesi un audio eccezionale, forse anche superiore alla grafica, quindi la parte della colonna sonora, e ha fatto un capolavoro che chiaramente solo per la sua bellezza è riuscito a sfondare, però chissà quante bellissime cose vengono fatte in termini proprio di game design tutti i giorni in ambito sia videoludico che di piccola editoria di giochi da tavolo, che non riescono a vedere non hanno la visibilità che magari potrebbero avere se avessero, appunto, se fossero una grande casa editrice. Quindi ecco, per quanto mi riguarda, le piccole case indipendenti, solo di fiato per dire che Machinari è un'avventura grafica, è stata pubblicata nel 2009. Dai, no, chi è che non la conosce Machinari? Lo sto leggendo adesso, dopo tre anni di sviluppo, da 7 sviluppatori ciechi, non senza occhi, ma ciechi come cecoslovacchi, non videolesi, con un budget di marketing di $1000. Il titolo poi è stato pubblicato sia come app che per Windows, Mac, Linux, sì, e tutto quello che potete immaginare, compresa la PS Vita nel 2013. Ho appreso di questo, un'avventura grafica molto bella. Ma torniamo alla nostra idea G, su via. Vai, rimettici sul pezzo, sul binario, vai. Sì, ma sì, allora, perché vi siete persi, cosa... parlato di videogiochi, avete parlato di videogiochi. Cosa terribile, non lo faremo mai più. I videogiochi sono belli e sono indipendenti in termini proprio di che portano qualcosa di nuovo, ben venga. Cioè, non è che non li dobbiamo demonizzare. No, ma no, cioè, assolutamente. Io gioco regolarmente a videogiochi, quindi... Sì. Io no, veramente, però son comunque molto interessato, anche perché sai mai che può venire, diciamo, la nuova meccanica super bella, può venire magari anche dallo spunto di un videogioco indipendente. Ma guarda che ultimamente un'occhiatina la sto dando alle app, alle app di giochi da tavolo, più che altro. Spendo 20 secondi come game designer su questo. Sappiate che molte idee trasformatissime di alcuni giochi che io vedo, non solo miei ma anche di altri, vengono dai videogiochi e viceversa. Quindi game designer in erba, se volete, potete trarre idee anche dai videogiochi. Torniamo ai DAG. Okay. Dici qualcosa di queste idee, cosa... quattro gatti e avete tirato fuori. No, neanche così spelacchiati, neanche così poco numerosi. Sostanzialmente la cosa che mi è piaciuto è che possiamo dire, cioè io lo sottolineo sempre, è che ci si conosceva, ma soprattutto c'è un senso di amicizia e di, non so, direi di alleanza sì, tra le persone presenti, molto molto bella, molto molto bella. Nel senso che chiunque facesse provare i propri giochi agli amici, perché poi magari non siamo chissà quanto amici, ma possiamo considerarci amici, riceveva dei consigli veramente spassionati, come accade ai DAG, e il fatto che fossimo pochi garantiva anche una maggiore partecipazione quasi sociale, quindi dal tavolo di vicino c'era chi buttava l'occhio sul tuo tavolo, tutti ridevano per qualcosa, qualche sciocchezza delle tante che facciamo al prototipo, e poi diceva: ma guarda, potresti trasformarlo in questa direzione, a me piacerebbe tanto. Ecco, quindi questa è la prima cosa che io mi sento di dire e che mi è piaciuta molto. Sicuramente tornerò il prossimo anno perché è stato un successo. E quindi chiunque abbia un prototipo e voglia, senza essere chissà chi, partecipare amichevolmente, secondo me troverà veramente un pubblico di appassionati, molto disponibili e curiosi delle loro idee. Dico bene? Sì, soprattutto direi che c'è stato anche un bello spettro di tipologie di persone che sono venute, cioè è venuto dal autore edito con esperienza tipo Teo, tipo Daniele Simone di Tolkien, ha l'esordiente che ha portato un'idea di gioco, nemmeno un gioco. C'erano molte idee, bravo, vero, sì. E nessuno ha battuto un ciglio, cioè nel senso tutti si sono messi lì di buona lena a portare valore e buoni consigli, senza risparmiarsi, senza trattenersi nel dare il massimo, e devo dire che effettivamente questo è il clima che vorrei vedere un po' ovunque in ambito professionale, nel senso di collaborazione in generale. Sì. Sarebbe poi, chiaro, è facile fare i fenomeni quando il settore è un settore talmente povero che non renderà ricco nessuno, nemmeno Klaus Teuber. Lo dico perché è chiaro, quando non ci sono tanti soldi o comunque non ci sono degli interessi molto forti in ballo, è più facile essere ben disposti e, come dire, liberi da interessi secondari. Quando io posso immaginare, per esempio, ecco, faccio spesso l'esempio fra i LCG e i CCG, cioè fra le Magic e Netrunner, per fare gli esempi che faccio di solito. Io non ho ancora detto Netrunner. Esatto. Io allora dico miniature, così siamo a posto. Sì. Esatto, tu dici miniature, io dico Netrunner, e già la puntata ci riconoscono. Zizi parla di un suo gioco. Esatto. nominalo, così siamo a posto. No, di un gioco tuo. Simurg, va batto. Okay. Che deve Perfetto. Uscire. Bene, Fabio, devi dire cinghiale, così a caso. Cinghiale, ok, funziona, va bene. Benissimo. Tipo prova microfono. Torna, esatto, cinghiale, prova microfono, Netrunner, miniature, cinghiale. Ok, vabbè. Funziona, puoi andare avanti, vai. Sì, andiamo avanti. L'esempio è questo, laddove non ci sono soldi, quindi non ci sono interessi diversi dalla semplice passione in gioco, il clima è sempre eccezionale. Tu vai a un torneo di Netrunner e non stai con mille occhi a guardare cosa fa l'avversario nel proprio turno, non hai l'ansia che quello ti mescola le carte mettendo le carte sfasate verso il basso perché ha le tecniche di mescolaggio del croupier de Las Vegas. e al contrario vai a un torneo di Magic, stanno tutti incazzati duri, nessuno che si, che si, cioè tutti che si guarda male, perché chiaramente mors tua, vita mea, proprio perché in ballo ci sono dei soldi, cioè ci sono dei soldi anche tanti, e riuscire magari, che ne so, a vincere un national ti fa portare a casa dei bei soldini. Ora io onestamente quanti ce ne siano in ballo non lo so, me l'hanno sempre detto, me l'hanno sempre raccontata che è comunque ci sono dei soldi, che dire. Esatto, me l'hanno sempre raccontata tipo una madonna i soldi che ci so, vabbè. No, però insomma, lo stesso discorso io lo farei anche nell'ambito del game design, nel senso che, cioè, se io ti do una dritta per far meglio il gioco e te poi con quel gioco hai successo, non è che non me mangio le mani perché dico ah cavolo, me la potevo tenere per me quella dritta e la facevo io, così c'avevo successo io. Sono talmente tante le variabili che portano un gioco ad avere successo, in più sono talmente pochi soldi in ballo se per caso il tuo gioco ha successo. Intanto ti dico che il campionato mondiale di Magic offre un montepremi di $150,000. Fregate. È rispettabile, però non è una cifra. Sì, non ti cambia la vita. Insomma. No, ma non è che cambio la vita, cioè per un ragazzetto, cioè c'è la foto qua di non so se facevano bene a metterla o oscurarla. Comunque c'è la foto di un tizio con la coppa del campionato mondiale. $150,000 per un ragazzetto che così sarà 20-25 anni sono soldini. Ma ecco, ti sbagli, quello è un quarantenne, ecco perché non ho oscurato, cioè, vestito come un ragazzetto. No, cioè, non c'ha manco un pelo di barba sto qua, ragazzi, cioè, come fai? Poi posso aggiungere qualcosa, provando a fare insieme a Federico le uniche due persone serie. non è vero. Dunque, che c'è un'altra cosa che mi è molto piaciuta dell'incontro, il fatto che non si sia solo giocato e parlato di giochi e di migliorare i prototipi, alcuni dei quali, devo ripetere, e mi ha stupito positivamente, erano più idee di giochi che giochi veri. Comunque, ma mi piace questo. Bensì, devo segnalare una cosa che mi è molto piaciuta. Si parlava anche dei giochi in generale, quasi di filosofia. Del gioco di ad esempio, andiamo sul concreto. A un certo punto è stato tirato fuori una domanda che riguardava come fare i regolamenti. Io e Federico, tra l'altro, in quel momento siamo anche un po' coalizzati, diciamo così. Quindi una domanda seria su come in generale poter fare regolamenti, se ci fosse secondo noi una filosofia unica valida per tutti i regolamenti da applicare alla scrittura dei regolamenti seri, professionali, fatti bene, oppure se applicare un'altra filosofia generale. Quindi noi stavamo giocando innanzitutto, quindi mai disturbare dei giocatori che giocano perché si rischia la morte, ma finita la partitina c'è stato un momento breve in cui abbiamo poi discusso. Io ho dato la mia risposta, Federico ha dato la sua, non so se chi ha fatto la domanda è stato disposto a capire realmente quello che volevamo dire, ma ad ogni modo c'erano tutta una serie di eventi di questo tipo in cui si è parlato in generale del gioco, del giocare, del realizzare giochi anche da un punto di vista economico, proprio tecnologico. Giusto per dirvi, mi è stato detto cose che io non sapevo su le fustelle, il modo tecnologico per realizzare i meeple, cosa che io non sapevo. Tascini mi ha raccontato questo, Daniele Tascini mi ha raccontato cose relative alle fustelle. Come, boh, niente, come li fanno? No, aggiungo io qualcosa. Sono curioso, come li fanno i meeple? Poi ti dico quello che io so, il poco che so, di Alan. Ah, ok, no, semplicemente no, tra gli argomenti interessanti che ero curioso io, si è andato ad analizzare il perché magari il gioco è sempre giocato al nord e poi sparisce come i negozi specializzati molto al sud, e ho parlato con un ragazzo che almeno non ricordo il nome, che ha avuto una ludoteca mi sa a Napoli proprio, sì, a Napoli, Sergio, esatto, ed è interessante. Io giustamente ho chiesto, ma in realtà se un nerd diciamo al nord è visto sempre in maniera un pochino diffidente, pensa al sud dovrebbe essere molto più esagerato questa differenza, e soprattutto ha detto, ma come fai a portare un giocatore, un newbo, diciamo, soprattutto in un mondo come il gioco da tavolo, perché viene visto come una cosa veramente straniante, E invece mi ha risposto semplicemente che quando tu proponi un gioco, se glielo spieghi in maniera complessa, non ti seguono neanche, ma se tu glielo lanci come una sfida, lì attecchisce molto più che da noi, perché comunque sono sempre abituati a sfidarsi in maniera molto giocosa. Quindi proporre i giochi e farli incominciare giocandoli come una sfida è molto interessante come mentalità. Mentre invece io più che la sfida io cerco solo, diciamo, non mettermi alla prova, ma solo staccare un attimo, divertirsi in qualcosa. Però loro la vedono come una cosa personale. Ogni cultura fondamentalmente ha la sua leva di con cui riesce a entrare, la sua chiave d'entrata. Lui ha scoperto che se sfidando la persona si attivavano tutta una serie di ricettori che magari erano spenti prima e che magari ti fanno sì che tu ascolti meglio le regole o che ti applichi di buona lena invece che metterti lì in maniera passiva a recepire il gioco. Ti parte la vena. Sì, è interessante, cioè, quindi per dire che di AG si fanno anche discorsi quasi filosofici, capito? Sul perché viene visto nella nostra penisola in maniera diversa il gioco o certe tipologie di gioco più che altre. Paolo Mori si è soffermato parecchio a parlare di quelle che secondo lui dovrebbero essere i minimi garantiti in termini di contratti tra autore e casa editrice, cioè ha fondamentalmente sottolineato quelle che secondo lui dovrebbero essere praticamente lo standard minimo di quello che dovresti dire sì, questo lo accetto, questo non lo accetto, e questo perché lui con un approccio molto, come dire, sindacale, ma secondo me super giustificato, perché siamo tutti quanti completamente all'oscuro di come dovrebbe essere un contratto tra autore e editore. Lui dice: io ne ho firmato più di uno, giustamente, anche Carlo c'era nella discussione, Carlo Rossi, che anche lui comunque ne ha firmati parecchi, soprattutto con realtà tedesche, sì. E ha detto sì, effettivamente un contratto che non preveda un anticipo a fronte del fatto che il gioco viene bloccato non dovrebbe essere nemmeno preso in considerazione, proprio perché nel momento in cui una casa editrice, cioè nel momento in cui tu ti impegni a non far vedere il gioco ad altre case editrici, anche la casa editrice deve comunque impegnarsi economicamente dimostrando appunto che è interessata al tuo gioco, fermandolo con una caparra. Che poi quella caparra diventi un anticipo provvigioni sul gioco edito, ben venga, perché vuol dire che comunque il gioco è stato pubblicato. Se poi invece diventa una sorta di spesa che la casa editrice ha fatto per bloccare il gioco per un certo periodo, ci sta anche quello, proprio perché si toglie la possibilità a quel gioco di essere presentato ad altre realtà e magari trovare la sua strada altrove. Una forma di naturale rimborso per il tempo in cui quel gioco è stato fermo e non ha avuto la possibilità di essere trovato da altre case editrici. Sono tutti argomenti che molto spesso noi nel giocare o nel dare per scontato un gioco al quale stiamo giocando non mettiamo minimamente a fattore, nel senso diciamo quest'autore avrà trovato la sua casa editrice che era pronta a pubblicare e ci sembra tutto molto facile perché ci arriva un prodotto bello e fatto e finito, ma dietro questo prodotto ci sono una serie di competenze, complicazioni, rischi che la casa editrice, ma anche l'autore, garanzie che ti dovrebbero dare. Sì. Sì, esatto, cioè nel senso la casa editrice rischia molto nel decidere di puntare su di te, ma è anche vero che tu se vuoi proporti come professionista, facendo, ti dico, cioè c'hai presente che tipo un anno fa si discuteva ancora che le case tedesche parlavano di togliere il nome dell'autore dalla scatola o robe di quel tipo, cioè riconoscere giusto una cifra tot per quello che gli dai e poi dire poi ci faccio quello che voglio. Loro ci stanno provando perché giustamente come professionisti stanno cercando di portare interessi dalla loro parte, nel senso che Se è vero che da un punto di vista, diciamo, delle vendite, ormai alcuni game designer portano delle vendite in automatico, vedi Feld, vedi Rosenberg, vedi anche Simone Luciani e Daniele Tascini, pure loro secondo me hanno ormai un nome. Perché Knizia lo stanno usando. Knizia, ma certo, ma insomma non c'è bisogno nemmeno di dirlo, alcuni nomi portano una vendita più facile. Se è vero questo, dall'altro canto il nome completamente sconosciuto dell'autore non porta nulla in termini di vendite, e quindi l'autore non ha nessun interesse a pubblicarlo. Poi è anche vero che è un cane che si morde la coda. È chiaro che se smettiamo di pubblicare il nome dell'autore, in primis diamo una bella coltellata a tutto il settore del game design in generale, perché è chiaro che con l'avvento del riconoscimento dell'opera di ingegno, sotto forma anche solo di una forma molto narcisistica di nome sulla scatola, sicuramente il mondo del game design si è popolato di persone che prima magari non avrebbero avuto interesse ad essere in questo mondo. D'altro canto, se una persona non ha mai l'occasione di potersi affermare con uno o più giochi, vedi, ecco, Antoine Bauza, se non avesse pubblicato il suo nome su Seven Wonders, probabilmente non avrebbe. Chi se lo filava per il titolo dopo? Chi se lo filava per il titolo dopo? Che fra parentesi, che era un titolo anche molto, molto strambo, tipo Rampage, che qui insomma soffia, sbatti sul tavolo, lancia i pezzi dei meeple, falli cadere. Insomma, era un titolo molto, molto indie, molto alternativo. Per non parlare ancora di più di Anabi, un gioco dove le informazioni sono segrete al proprietario delle carte, ma non agli altri. Sì, poteva perdere in mezzo a 2000 file. Sicuramente non avrebbe avuto quell'attenzione che come si meritava. Si era perso, peraltro, fino a che non ha vinto lo Spiel. E qui si è chi? Antoine Bauza? No, Anabi. Anabi non Anabi, prima che se lo tirassero fuori dal cilindro dello Spiel des Jahres, figurati se lo tiravano, ecco, cioè anche questo, comunque anche questo c'è poi un discorso a parte sui premi e sulla capacità dei premi di portare in alto ancora certi titoli, ecco, tutto lì. Ecco, no, era solo per dire che insomma giustamente le case editrici fanno il loro interesse, perché magari vogliono evitare di pagare delle royalties, perché comunque è complicato tutto il discorso royalties, diritti che tornano indietro, che ti tengo per un tot di anni, però se non me lo pubblichi entro tot mi riprendo automaticamente i diritti. Insomma, è tutto più complicato. Se invece fosse possibile, do il gettone. Come accennavi tu, cioè è chiaro che se tu riconosci all'autore un concetto di paternità forte, allora a questo punto viene tutto di per sé, nel senso che nessuno si sognerebbe mai di dire che l'autore di un libro lo paghi normalmente con una cifra fissa e poi quello che vende. Sì, è come se tutti gli autori di libri fossero dei ghostwriter delle case editrici. Cioè, scrivono non ha senso. La Mondadori pubblica Il Trono di Spade. Trono di Spade 2, Trono di Spade 3, poi subito dopo la Mondadori, lo stesso editore del Trono di Spade, un altro libro, senza dirti se quell'altro libro è di Martin o è di chi per esso. Oggi come oggi nessuno si sognerebbe mai una roba del genere. Di fatto la casa lo fa, perché sono le case che ti impongono poi i nomi. Però nonostante questo il mercato mondiale è enorme, e i nomi escono fuori anche da soli e le case sono costrette a correrci dietro. Nei giochi da tavolo il discorso è quello che magari la paternità, come si parlava con altri, è leggermente meno, diciamo, totalitario. Sono d'accordo al libro, perché molto spesso la casa editrice fa il più del lavoro. Anche giochi famosissimi come Carcassonne, quando sono entrati in Hansing Look, e queste sono testuali parole che ho ripreso dall'autore, ma da uno dei rappresentanti dell'Hansing Look, hanno detto anche Carcassonne quando è entrato era molto diverso da come l'abbiamo proposto, e grazie alle ai nostri cambiamenti è diventato un gioco, a detta di molti, molto più giocabile rispetto a quando è entrato, anche a detta di autori. E quindi chiaramente è come se la casa editrice si mettesse lì a sfoltire e a dire: questa parte, caro Martin, non ce la metti, quest'altra cosa qua me la fai diversa. Che però effettivamente in ambito editoriale, anche di libri, è anche quello che succede. Cioè, se tu leggi gli scambi di lettere fra Tolkien e il suo editore, l'editore faceva una signora parte nella definizione di quello che sarebbe poi diventato il capolavoro del fantasy. Quest'anno uscirà Carcassonne Star Wars. Vabbè, ma cosa c'entra? No, così l'ho letto. Ma niente, Fabio ogni tanto gli parte il neurone. Non resistevo a non dirvelo. Carcassonne Star Wars, vai. Certo, crea anche tu la tua galassia, poi metti un meeple sopra la Morte Nera, se metti tutti i tesseri intorno alla Morte Nera fai 9 punti, dai, lo sanno tutti come funziona. No, allora, l'ho trovato perché stavo cercando che cacchio ha fatto Klaus Jürgen Wrede. Sì. Negli ultimi anni, e a parte che la parola Carcassonne, sto facendo fatica a trovare altre cose. Vai pure. Vabbè. Io vorrei tanto, pagherei un braccio per vedere Fabio in tribunale, cosa fa, come sono le sue arringhe. ma a parte questo, dunque ne approfitto per dire una cosa a chi volesse partecipare a manifestazioni come Idea G in generale, non a Idea G solo e soltanto, ma cose simili. Ha fatto Rapa Nui nel 2011. Fabio, sei incredibile. Pierluca, ti blocco un secondo e faccio giusto una parentesi dicendo: è molto interessante venire a giocare a eventi come questi anche solamente in virtù di playtester, perché se sei un appassionato nel mondo dei giochi da tavolo capisci quanto lavoro c'è dietro un gioco che poi viene pubblicato, ed è per questo che noi giocatori che troviamo magari il bug in un gioco da tavolo pubblicato ci arrabbiamo tanto, proprio perché sappiamo che quel lavoro sarebbe dovuto essere fatto prima. Ho finito la parentesi, veniteci a trovare anche come playtester, abbiamo bisogno di voi. Quando lo fate la prossima volta dillo, così almeno lo sappiamo. Fra un anno, quindi aspetta, su questo vai Alan, vai. No, dico, su questo argomento del playtester, molte volte mi è capitato di sentire però che, ahimè, quando un autore dà il gioco a case editrici varie, poi comunque viene un processo di editing, giusto? E certe volte però il problema non è dell'autore stesso, magari per un refuso o un regolamento sbagliato, ma il passaggio di consegna. Mi confermate comunque che è così? Beh, si dipende molto dalla casa editrice. Ci sono case editrici che seguono in maniera maniacale il processo che va dalla consegna del prototipo, chiamiamolo così, fino al prodotto finale. Ci sono altre case editrici che di solito seguono meno e delegano molto più all'autore i cambiamenti, ovvero dicono: guarda, questa cosa non ci piace, fai tu e facci un'altra proposta. Ultimamente, da quello che io ho visto, soprattutto per i giochi un pochettino strutturati, si fa molta più attenzione a seguire passo passo tutti gli anelli della catena, proprio per evitare di essere poi sburgiardati, come è successo ogni tanto con qualche gioco che ha dei bachi notevoli. Si sta alzando il livello di professionalità. Sì, è bene. Okay. L'altra cosa che... Vai. No, Nicola... L'altra cosa che volevo aggiungere sempre su DAG e sugli autori di giochi è che io da fuori di solito mi chiedono sempre: ah, ma tu lavori nei giochi, vorrei proporre questa cosa qua, vorrei proporre questa cosa là, e dicono: ma vabbè, ma se vado ai DAG e propongo il mio gioco, poi gli autori molto più bravi di me, molto più inseriti nei giochi, nel mondo, sì, mi rubano l'idea, io non so nessuno. Ma infatti è una cosa, ma che viene normalissima, magari dal mondo delle sceneggiature, dal mondo degli scrittori, però invece è talmente, cioè quello che mi vedo è che è da fuori, diciamo, non da game designer, e che comunque sono poche le persone. Quindi se esempio io ipotetico creo un gioco e lo spiego a Zizi, e poi Zizi magari me lo copia di tronco, e lui Zizi diventa l'appestato. Giusto? Il copione. Esatto, copione, esatto, maledetto. Beh, allora, no, non era una domanda la tua, ma ne approfitto come se fosse una domanda ed una risposta. Assolutamente non c'è questo. Sì, esatto, mi faccio una domanda e mi do una risposta da solo. No, come hai detto tu, in realtà non c'è nessun pericolo, a parte che ci si conosce tutti, sì, infatti. Che già è una buona garanzia. Molto spesso gli autori più o meno affermati fanno vedere, fanno giocare in pubblica piazza, come è successo, visto che lì eravamo appunto in piazza, il proprio gioco più e più volte a varie platee, e questo è un modo per tutelare, è l'unico modo reale, serio per tutelarsi. No, anche perché, aperta e chiusa parentesi, cioè se tu vuoi che un gioco funzioni, devi farlo playtestare, ma certo. Cioè devi farlo giocare, e soprattutto più il playtesting è limitato come gruppo, e meno vale. Ma cioè, assolutamente. Se tu prendi quattro persone e fai giocare a quelli, ci possono giocare anche una vita, ma ci sta che una sera arrivi un gamer diverso, che pensa in modo diverso da loro, e gli sfonda il gioco in una serata. Sì, quindi, è successo tante volte. Però. E qui perché? Perché è il concetto di pensiero laterale, no? Arriva una persona, la pensa in modo diverso, tra che ti trova un bacco che gli altri non hanno trovato. Quindi normalmente un playtesting valido deve passare in mano a tanta gente il gioco. Certo. E quindi gli stessi rischi che tu hai facendolo passare ai playtester, ce l'hai dall'altra parte. Cioè è un mondo che comunque ti richiede, cioè non è come un libro, no? Che il libro, cioè, lo leggi, te lo rileggi, lo fai leggere a qualche amico e è finito lì. Qui il gioco deve reggere, cioè sì, deve essere esposto a tante persone. Esatto, cioè c'è proprio questa necessità, quindi c'è poco da fare. O tu ti metti, cioè ti sei messo in testa che il tuo gioco te lo fai, te lo rifinisci e speri che funzioni tutto, ne dubitiamo tutti, se nessuno sì. L'abbia mai visto, oppure lo devi far provare comunque a un pacco di gente, e allora tanto vale la pena che lo fai provare anche qualche esperto, che gli dà anche qualche consiglio. Cioè, detta così in soldoni, ecco. Sì, fra parentesi, le idee non mancano, sicuramente la differenza la fa la volontà di farle funzionare e di far sì che ci si metta lì con umiltà e magari si facciano spesso dei passi indietro su delle proprie idee a favore magari di qualcosa che funziona meglio, che viene suggerito anche dagli altri. Io molto, molto spesso quando faccio i playtest dico, ragazzi, voi siete praticamente degli attori di questo spettacolo. Io posso fare da regista, cioè voi mi date degli spunti e io decido quali applicarli, però gli spunti me li date voi, nel senso che siete voi che ci giocate, siete voi che avete la mente neutra nei confronti del gioco, e che quindi non avete dei preconcetti nei confronti del gioco, e magari trovate delle strategie o mi date delle prospettive che io prima non avevo. È chiaro che alcune prospettive magari del giocatore meno esperto io probabilmente le scarterò, perché saranno delle proposte più toppa più che veramente delle proposte di game design interessanti. Però molto spesso invece anche proprio sull'usabilità del prototipo, sulle aspettative che i giocatori hanno nei confronti del gioco, io me lo segno proprio. Cioè quando vedo, che ne so, che spesso una regola non viene mai utilizzata perché tutti se la scordano, oppure nessuno la applica, evidentemente quella regola non serve, nel senso che se fosse veramente utile, o comunque se fosse un'opzione realmente interessante, qualcuno se ne avvantaggerebbe. Il mondo, un'altra cosa, senza voler ribadire di nuovo il discorso dell'aspetto economico, è chiaro che quindi nessuno va in giro a far firmare dei non disclosure agreement a destra manca solamente per far fare dei playtest, ma in realtà il mondo dei giochi da tavolo, mentre noi spesso lo assimiliamo a quello dei libri per quanto riguarda l'editoria, per quanto riguarda l'inventiva o comunque la creazione di nuovo, lo dovremmo più che altro assimilare al mondo della moda. Perché? Perché come non è possibile brevettare un tipo di pantalone o un tipo di giacca o un tipo di mantello, così non è possibile brevettare una meccanica di gioco. E questo però molto spesso viene visto come un limite di questo mondo, perché dice, ah cavolo, se hai avuto una bellissima idea non puoi proteggerla, gli altri se ne possono avvalere come se l'avessero inventata loro. Se da una parte un po' ti tira il culo perché magari vorresti essere l'unico a poter, che ne so, fare il deck building, ah, Donald Vaccarino è diventato un plurimiliardario perché tutti quelli che vogliono fare il deck building gli devono pagare una fee, una royalty. No, non è possibile fare questo, però in realtà questo alimenta moltissimo l'innovazione nel nostro settore, cioè proprio perché tutti possono usare le meccaniche di tutti, non avendo nessuna forma di restrizione, si ha la possibilità di mescolare, riutilizzare, reimplementare e proporre magari meccaniche già viste in precedenza da un punto di vista nuovo, da una prospettiva nuova. Concordia ha implementato il deck building nella propria mano, quindi ha fatto quello che si chiama, che hanno tutti chiamato hand building, che non è un granché come parola, però insomma la costruzione della mano invece che la costruzione del proprio mazzo. Diamo un po' di soddisfazione anche al nostro Zizi. Bag building. Il bag building. Pierluca lo sa bene che bag building esisteva da ben prima di Iperborea. Diciamo che noi lo abbiamo messo centralissimo, ma sì. È stata una scelta di design decidere di come mettere il back building come centrale, pur essendo una meccanica già esistente. Posso citare un paio di titoli se vuoi, ma al di là di questo, esattamente come nella moda, non c'è bisogno di brevettare un pantalone. Si prende quello che già esiste e se ne fa una nuova prospettiva, se ne fa qualcosa di nuovo, e la moda come il game design sono due settori assolutamente eccezionali dal punto di vista della creatività. E quindi non lamentiamoci se non è possibile brevettare una meccanica, perché altrimenti probabilmente la maggior parte delle meccaniche che noi abbiamo in tutti i nostri giochi sarebbero in mano alla Wizard of the Coast. È probabile, sì, oppure a chi ha inventato i giochi tradizionali di carte francesi. No, perché più che altro il ragionamento era quello che semplicemente c'è magari un editore grosso che comincerebbe a rastrellare una per una tutte le licenze e alla fine sarebbe l'unico a produrli, fine. Toglierebbe sicuramente anche i nomi degli autori. Wizard of the Coast. E via, questa poi, vabbè. Niente, posso approfittare per fare un invito? Visto che abbiamo parlato di DAG, e ci sarà, come ho detto, i DAG Nord-Est anche quest'anno, sarà il 4 e il 5, il 5 e il 6 settembre, non ricordo quali delle due combinazioni di date, comunque sabato e domenica, mi sembra 5 e 6 settembre a Udine, gli organizzatori, quindi Roberto Pestrin in primis, hanno fatto un errore titanico, mi hanno invitato per il secondo anno, e mi hanno chiesto come l'anno scorso in realtà tu non lo sai, ma ti hanno dato la data sbagliata. Allora ho fatto tutti i biglietti sbagliati. È terribile. E quindi niente, mi hanno chiesto di fare questa roba, non so come definirla, revisione dei prototipi, giocare a tutti i prototipi che sono iscritti e a dare a tutti dei consigli. Lo faccio molto volentieri perché, come dicevamo prima con te Federico, Alan, Fabio e tutti, è una cosa bella, e poi veramente si fanno amicizie. Io ho fatto amicizie l'anno scorso a Udine con persone che non avevo mai visto prima e che non avevano mai fatto nessun prototipo in vita loro, che erano entusiasti perché trovavano al tavolo di fianco a loro persone che avevano giochi completamente diversi, ma si creava veramente un'atmosfera familiare in cui dicevano, ah, ma io ho inventato questo gioco, me ne ricordo uno sui gladiatori, ad esempio, l'anno scorso, a cui io ho dato un paio di idee, ma il gioco è rimasto suo completamente, e ha detto, ah, ma che bello, questa una roba non ci avevo pensato, e poi ha chiesto all'altro, ma il tuo gioco sui dinosauri, c'era un gioco sui dinosauri, come l'hai fatto, insomma, facciamo veramente un gioco sui dinosauri gladiatori, sì, sul cercare le ossa dei dinosauri e metterle insieme, in realtà gladiatori contro dinosauri, guarda, c'è un film che deve uscire, ma è che è rimasto nel limbo dell'internet, e che è Gladiatori contro Lupi Mannari, che la storia si basa semplicemente che a un certo punto i romani sono andati a pigliare tutte le figure mitologiche e le hanno buttate nell'arena. fantastico. Bello, bellissimo, andremo a vederlo sicuramente. Va bene, niente, quindi ho finito il mio invito a IdeaG Nord-Est e spero che siate numerosi. A me fa molto molto piacere invitarvi perché ci si diverte tantissimo, insomma. Fabio, a te. Sì, sì, no, niente, l'invito l'hai fatto, ormai non l'ho potuto fermare. L'unica cosa che posso fare invece posso fermare la puntata, nel senso che ormai ci siamo arrivati in fondo, anche perché promettiamo comunque, cioè adesso il podcast serve un po', secondo me, anche per dare un po' più di respiro al, diciamo, al blog, nel senso che sicuramente alcuni dei nostri ascoltatori e lettori da una puntata del podcast si aspettano magari che facciamo una chiacchierata su quali sono i nuovi titoli che usciranno a Essen, che cosa avete giocato l'altra sera o cose di non ce ne frega un cazzo. Qualcuno può essere, però nello stesso tempo alcuni lo dicono in questo senso, altri però hanno piacere di avere un po' una visione da dietro le quinte, visioni un pochino diverse del mondo dei giochi da tavolo, sentendo anche parlare di cose delle quali normalmente non si scrive, perché normalmente quando fai un report, cioè se su 360 articoli ne esce uno dedicato al report di IdeaG, è la media normale. Magari questa volta abbiamo parlato, dedicato una puntata intera a questo tipo di realtà un pochino diversa da normale. Fabio, dopo che ha vinto Broom Service come Ken Spiel, sto ancora battendo la testa contro il muro, sì, però, l'unica cosa che io in maniera più, come dire, corretta l'ho già messo nella lista della spesa. Ah, che politicamente corretto. Ok, Pierluca, fammi questo commento. Sto parlando male. No, Fabio, allora, zitti. Allora, ciao, Pierluca. Dimmi. Sì? In Broom Service, sì. La principale meccanica fa sì che uno o più giocatori nel loro turno non facciano niente. Ok? Allora, sì. Ti devo fare un commento su questo. Da game designer, me lo vuoi commentare? Allora, sì, molto brevemente, poi chiudiamo la puntata, dai, sennò Fabio ci spara. Quando io per le primissime volte incontro persone che non hanno mai fatto giochi, dico poche cose, gli dico: senti, però non mi devi fare almeno neanche uno di questi due errori capitali che non ti perdonerò mai, uno dei quali è saltare il turno, far saltare il turno, che è proprio... Capisci? Kenner Spiel de Jar. Gioco dell'oca. Esatto, lui mi tira fuori Broom Service e mi dice: ma come, è questo? E io gli dico: ho sbagliato tutto io, oppure hanno ragione loro. Anche perché venderà 100.000 copie quest'anno grazie a questa roba, va bene. Ok, niente. Va bene, ma... dopo contusioni di livello aggravato nella nostra testa per averla sbattuta nel muro, dopo aver sentito Broom Service, Kenner Spiel de Jares, salutiamo tutti quanti. In primis saluto Fabio, ciao. Saluto Alan, ciao a tutti. Saluto anche Pierluca e lo ringrazio per questa presenza. È un piacere, ciao a tutti. E vi saluto anch'io, che sono Federico. Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.